dai, Peppe, non c'è nessuno. Attenzione, attenzione, questo calibro c'è qualcuno. Gatta, gatta. È tutto fischiato, Luca. Ancora? Ancora no. Sì, cosa stai usando? Galaxy. Abbassa l'eco che non si capisce niente. Guarda adesso. Però mi sembra di sentire un leggero innesco, metti la portante. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, tu che stai innescando. Sì, stai innescando. Anch'io sto innescando. Eia. Leggero, leggero. No, già, sto collegando il microfono a quella radio che mi doveva arrivare. Che ti ho mandato la foto. Le sto collegando il microfono, allora se aspetti 10 minuti così mi dai un controllo. Perché questa radio qua, cioè quell'attacco a jack, capito, non mi piace. Così che vabbè, adesso mi sto collegando il microfono, giusto per vedere come esce, poi li collego l'altro però. Adesso sto collegando quello che ho usato l'altro giorno, quello della Midland. Capito? Questa radio qua c'è l'attacco a jack dove quello sì, già, ma non mi piace a me, no, io li faccio, se la tengo, siccome non c'è un posto dove tenerla, ma se la dovessi tenere, gli allargo il buco, li infilo lo spino per 4 e riesci a andare. E aspetta, sto mandando la foto. Allora, come facevi tu? Come? Io non ti capisco, sei in barretta una ieggia. Guarda adesso. Io sto facendo molto male, ma cosa stai usando? Il Galaxy, no, me ne dica a me. Fa male però, cazzo Luca non parla niente. Io l'ho già detto, clamo, io non posso c'è tutta la di aziende così, capito? Sì, ma cazzo, cioè, non si capisce niente, pare dentro una ieggia. Sì, gli ho fatto abbassare l'eco anche perché non capivo quello che diceva, però gli ho detto c'era un innesco, boh. Però adesso sentendo come va. No, sto facendo rispetto all'altra volta già, sei tutto cupo con un fischio. E su Galaxy proprio una cosa allucinante, una dieta funziona bene e due diete funziona male, non ti capisco già, sei tutto cupo, tutto aspetta, sto collegando il microfono, quello della Midland a quella radio che ti ho mandato, dai, così mi dà controllo, stacco un attimo l'antenna da quest'altra radio. E io già sono qua, dai, non c'è problema. Adesso mi capisci? Adesso sì. Così almeno. Ho attaccato l'altro, là. Ehi, va bene. Adesso ti capisco perfettamente. Poco fa, no. Cappa, adesso me lo compro nuovo. Ehi, Laura. Che tu compravi nuovo il Galaxy? No, non me ne compri più il Galaxy. Mi ha rotto le palle adesso. Ehi, non ti credo. Boh. Non ti credo, no. Cappa. Va bene. Cosa ti devo dire? Non so, fai tu, camomilla. Io non agio mio radio, già. Non te posso aiutare. 140 ha venduto, sabato vengono a ritirarsi, anzi come ho dato un messaggio se vuole venire appresso anche oggi, tanto l'ho già attaccato. E niente, poi questo qua vediamo, se lo metto in vendita me lo tengo, se mi tengo solo 430, non lo so, devo decidere anch'io cosa fare. Mi metto a modulare con i baracchini, che sono belli, funzionanti e vanno bene. Mi sta piacendo quel Ranger, cazzo, mi pare che non mi... Cos'è quel Ranger? Stazione base, quella che stanno facendo adesso. Stazione base che stanno facendo adesso? Quella che avevo mandato la foto l'altra volta? Quello lì è bello. Diciamo che non è proprio adesso, noi l'abbiamo scoperto adesso, ma dice, mi hanno detto che lo stanno facendo già da qualche tempo. E che costa un po', però almeno ce l'hai nuovo. Attenzione, quello che costa una coglionata è il veicolare, l'altro base devi chiedere se c'è, se in disponibile c'era quello veicolare. C'è. L'ho già visto, c'è disponibile, ce n'era uno ne avevano disponibile e l'hanno venduto perché sono tipo il Galaxy, credito. Io baracchini no, ma compro altri baracchini nuovi, diciamo, se vi capita l'occasione di prendere qualche altro baracchino, sì. Guarda, l'altro sono 105, subito. Però così no, ce ne butto subito, poggio, come sarebbe. Poi guarda, c'è il mio nuovo, funzionato al 100%. Ce l'ha messo tanto più tre, va ancora meglio, va bene così, quello cosa che ti fare una domanda in San Radio che si tira l'uccivata, io te l'ho sempre vantato, ci va una canonata con la radio, non capisco cosa gli abbia preso. Sì, qualche componente in più sta facendo, ma sta cambiando il componente, ci vuole un dottore che dico io, ma è impegnato, se no però gliel'avrei già portato. È impegnato, ha già dichiarato che non lo vado via nessuno. Ha detto fatelo fare, cosa vuol dire? Non sono problemi miei, già risolvi tra tu, se lo vuoi aggiustare lo aggiusti, se no tu compare di nuovo, cosa vuol dire? Cioè, ce ne sono altri galassi, ne ho visto uno da poco anche su internet, nuovo di programmatore che prima era CB, lo teneva un giorno l'ha scritto, tenuto veramente bene, non so, mi fa comprare da grossi 220 euro. Io ho pagato 200, quindi va bene il prezzo suo è 200, poi lo vendono 350, 470, ne ho visto tutti i prezzi, c'è proprio da ridere certi quanto lo vogliono, 470 euro. Sì, vabbè, quello lo dice lui, se non vuole, non vuole 470 euro, scemo e ti abbocca, poi tu regalaci 200 euro, no, non di più. Infatti a me se mi diceva 220 non l'avrei comprato più, mi ha detto 200, ok, sto venendo a prenderlo, me l'ha portato lui, perfetto, in ordine, tutto a posto, quindi però non si può prendere tutti quei soldi, sempre la radio vecchia, quindi può capitare anche a quella ricca. Vabbè, aspettiamo a Luca che finisce di fare questa cosa e poi vediamo. Luca, va a tappare la foto. Cosa l'ho mandata l'altra volta la foto? L'ho mandata anche a me? Questo no. Cosa questo no? Questo è quello che mi ha mandato l'altro giorno che ancora non era arrivato. Ma scusa già, perché non ti prendi quello là? Non ho mai capito di chi? Ah no, che è una radio nuova. Quella già è bella relax, cioè tutto, meglio del Galaxy, o meglio dello Ranger, c'ha potenza, c'ha tutto, minchia, una bomba con la radio. Devo valutare, non mi piace quella radio, non mi piace quella che mi ha mandato, sinceramente, io sono sincero. Non sto parlando di quella, anche a me non è che mi dice molto, è un po' spenta, molto spenta. No, ho detto, tu invece di comprarti quel Ranger, perché non ti prendi quella che ti ha proposto quella persona là? Capito, che ce l'hai anche tu, non come quella però. Adesso vediamo. Devo andare anche dal dentista, adesso vediamo la spesa che viene in quattro, devo andare al dentista che mi si è rotto un ponte, cazzo di due denti, poi ce l'ho sulle 900 euro. Vabbè, io non ti sto facendo conto in tasca, vedi tu però. Modulazione perché avevo la T230 collegato, lo strumento della Kenwood, picchi di modulazione in 10 metri di 170 a 180 watt. Vabbè, perché con quel pezzolino posso prendere anche un 440. Il 440 non ce n'è più, io l'ho venduto, ma si l'ha venduto, capito? Massimiliano l'ha venduto, anche lui vanno sabato mattina a prendere la sua e lui sabato sera viene a prendere la mia. Ah, perché l'ho vista l'altro giorno, mi ha mandato la foto con la scrivania nuova e pedina, pedina come l'ha fatto la stazione. La deve riempire di più però. E io gliela riempio, sì, quella che aveva dato io la scrivania, quella che avevo io. Fidati non ce n'è già nei color radio, quindi stai attento, fidate non ce n'è, quella di Massi è già venduta, così mi ha detto, nuova, perfetta, e la mia venduta lo stesso, ma io l'ho venduta quest'estate, siamo a gennaio, quest'estate 2020, boh, forse era a settembre, non so, forse a settembre l'ho venduta, un po' di mesi fa, ad una persona ed è molto contento, nuova nuova. C'aveva tutta la mia, anche la scheda fonemi, tutto, completa di tutto, proprio bella bella bella. Altre, se non conosci, stai attento. Sì, io basta che faccio la telefonata in continente, ma lo faccio mandare la tecnica comunicazione, che già lo conosco, il tipo che va a fare le fiere, li ritira. A me l'altro 140 che c'avevo, quello che venuta a Marco Condo, quello lì che adesso c'è la pippare. Benito, quello lì l'ho comprato in continente, che era perfetto, ma già l'hai visto, tu l'hai messo anche lì, mi hai messo anche così, sì, l'avevo memorizzato e ti ho messo l'ultimo decimale, sì. Ma quello che ho preso Massi è una vetrina, ma è vista, il mio è nuovo questo, è nuovo, quello è ancora più nuovo, dentro e fuori, perché quello lì sono stati tutti e due revisionati, uno da Bianconi, uno da Vito Lab, capito? Continente sempre, bello, nuovo, nuovo. E vabbè, vedi un po', a te la scelta, io per comprare una di quelle, intanto c'è un vicinuro qui, alla Bordini, sto facendo qui, sto facendo là, sto facendo invece bene, qui e là, a Bordini è difficile già, a venderlo poi è difficile, ti conviene un baracchino bello, tosto, compatto, tu che ci puoi mettere MB più 5, lì c'è la stessa connessione del Galaxy quello, ci puoi mettere un bel tana più 3B, allora così si vuole, ci vuole. Ma quelli li fischiano, se tu li metti i microfoni amplificati fischiano, ma perché cos'è Colt? Non fischia quello, non sono usato io col tana più 3 di Massimiliano, ma te scherzando, assolutamente, mica è Colt quello, c'ha tutto, c'ha tutto, c'ha l'eco, c'ha bip, c'ha i watt regolabili, c'ha tutto quello che manca, c'ha 7 bande mi sembra, arriva fino a 30, 29 rotti, c'ha tutto, non è Colt quello, è normale, perché lo fischiare? Un po' ti sto dando un input, perché per prendere radio del genere io sarei andato direttamente su quella, non manco una radio nuova. Nuova e sincera veramente, ma ti sto dicendo, io l'ho provata, una canonata, ma bella, bella, bella, provata in 10 metri, 27, tu ricordi, l'ho provata anche con lineare, la volta che c'era Garvino a casa di, no, che Massimiliano era a casa di Garvino, lì vicino a te, non te la metti più, è un bel forte con la radio, vabbè, vedi tu, già... Lo sai comprare bene, vedi tu, adesso l'ho fatto riparare il Galaxy, scusa che ti dico. Adesso vediamo un pochettino cosa cazzo c'ha questo Galaxy, non capisco, perché è andato bene per roba di 3-4 settimane, se che lo sto usando non ha fatto nulla, adesso di nuovo. Ieri non hai sentito Massimiliano con quella radio, col tana più 3, pari al 440. sentito, sì. E va bene, già ne parliamo. Non so cosa da dire. Ehi, ehi, scusa, io ho trovato un input, non è che... Ci conciliamo tra di noi, capito? Perché comprare un 440 già devi stare molto molto attento. Può essere anche da fuori, può essere anche chi sia, però non lo vedi. Ti dico sì, visionamo a tasca, visionato tutto, a destra, a sinistra, poi arrivi, alla bodicena ci devi capire. Capito? Poi c'è, devi essere sicuro. Telefone, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, sono qua. Ha finito, Lucrezio Rogariello. Quel garage, vendilo a me. Cosa giù? Quel garage, vendilo a me. No, non vedo il garage. Guardati il telefonino. Guardati il telefonino su WhatsApp. Giù, già lo conosco, sì, lo conosco. Bello, eh? Sì, a reggere, sì, lo conosco, l'ho già visto, l'ho già inquadrato e sono quasi quasi per prendermelo. E se farò la consegna, se farò il pagamento alla consegna me lo prendo. Penso di sì, non lo so. Penso che su coso lo daranno anche così, il pagamento alla consegna, perché no? Contrassegno. Quello è nuovo, quello è nuovo. Sì, ma hai visto cosa costa? E 1000 passa io. No. Quello di 749 più le spese di spedizione, una quindicina di euro. Ti viene... ho visto. Aspetta che vado a averlo, però io l'ho visto in un punto, costava 1000 euro in tutto, trasferirlo e cose, sulle 1000 euro. No, 749, l'ho letto io poco fa, più 14 euro e qualcosa, 15 euro per la spedizione. Questo non è altro che un Galaxy Turbo B Giulio, uguale, identico, c'ha la tastiera delle memorie come il Galaxy Turbo, solo che almeno c'è un apparecchio nuovo in casa, capito? Infatti, però lo chiamano Ranger 299, mi sembra, adesso non ricordo bene la sigla, ma è così. Comunque sempre quello, è stato me poi praticamente, perché non è che ci sia, non è pazzesco. Ma ti sembra che una persona deve comprare 749 euro per un baracchino del genere, perché sempre un baracchino M, ma vai, cioè, c'è un HF tranquillamente, cioè, è buono anche. Lo so, ci sono anche quelli che comprano perfine gli apparati modificati, i 48 modificati, l'ho fatto anch'io, per 450 euro si possono comprare. L'ultimo tratto delle cose, non si è uscito l'ultimo tratto, lo so, ma è pazzesco, dai, bisogna essere fuori di testa secondo me per comprare uno con baracchino a quel pezzo, ma voi scherzate, ma dai, caspita, una volta io ne ho fatte arrivare due di Saturneco e costavano allora 749.000 lire quando era la lira. E oggi 749 euro più il trasporto, ma vai, ma piazzini, aspetta, ma che ci sono macchine, ma cosa credono di vendere? Qualche gioiello prezioso, meglio sempre una garretta mia, hai capito? È sempre un baracchino, che con quei soldi c'è un bel HF, ma di lusso, tu mi dirai, ma bisogna indovinare la persona che non abbia mai manomesso, d'accordo, ma anche per quello bisogna indovinare la persona che non abbia manomesso. Ma quello è nuovo, e chi l'ha manomesso? E quello è della fabbrica, quel pezzo lì è nuovo, l'apparecchio è nuovo. No, il Galaxy questo qui c'ha qualche componente in perdita, perché ogni tanto fa quel difetto, però il Galaxy è nuovo, nuovo, io l'ho aperto per sfruttare un po' di spray, magari ho detto sono sporche delle comunicazioni dei canali, delle cose, e mi ho sfruttato un po' di aria e poi ho messo questo spray per contatto. Si era ripreso, il giorno dopo andava benissimo, poi durante due o tre settimane adesso mi sta di nuovo facendo questa cosa, si mischia l'eco, e adesso lo provo, voglio provarlo col microfono normale, aspetta. Provo. Vabbè. magari sarà la condensa che fa contatto, perché lo sa, perché in questo periodo si forma anche la condensa tra l'ambiente mite dell'appartamento più il freddo che c'è, può essere anche la condensa, va bene. Comunque io non spenderò mai una cifra, io non so come diventato macco ancora. Caccia, ma vuoi scherzare? Chi lascia perdere? Ciao Giulio! Ciao! Avanti! Buonasera, amico. Buonasera! E allora, come va? Bene, stiamo andando oggi? Sì, ça va. Ok. Va bene. Ma avevamo mandato la fotografia che c'eri tu. Allora, era una fotografia senza nessun commento, né vocale né scritto, per cui comunque a un certo momento mi ha mandato l'altro, grazie lo stesso. Grazie lo stesso di cosa? Se non ho mai domandato nulla. Vabbè, è stato un sbaglio, probabilmente lo stava inviando a qualche d'un altro, invece è arrivato a me. E c'ero io questa fotografia. No, ti avevo scambiato per Ginko, ti avevo scambiato per Ginko, ciao Natale. Basta il radio Gianni, il microfono male, vabbè, basta il radio. No, questo non è il microfono, ma è quello del sopra, là. Suoni non lo sento, sento solo la radio, ma è pulita, però è bassa. No, Natalia, avevo scambiato per Ginko con quel boccione, come hai fatto? Il boccione? Ma è come sto uscendo di radio? Benissimo, stai uscendo. Va benissimo, Natalia, non c'è problema. Va bene. Nessun problema, come sempre Natalia. Santiago 9 più 5, quasi, e la radio è perfetta. E quello è, questo qui è l'MB più 4 che sto usando, quello che c'avevo in scatola, me l'ho piazzato qua. Sì, va benissimo, non c'è problema. Vabbè, se sente la televisione, ma quello è un altro discorso, non c'entra proprio niente. Ma la modulazione tua è bella, pulita, chiara, no? Non c'è problema, alla grande, anch'io l'MB più 4 sto usando sempre quello. Ormai già da un bel po' di tempo sto usando sempre l'MB più 4. Ogni tanto già cambio, metto un altro microfono, ma tutto sommato a me che cazzo, sempre blu a blu, da una cosa all'altra non me ne ha fatto molto niente. Non ho né voglia né tempo da perdere in queste soppiacce. Giulio, perché qua è il microfono del Galax sotto me, è normale. Va bene, il microfono va bene, non c'è problema, va benissimo. Ma la modulazione è chiara? Sì, è chiara, un po' nasina di male, però già è chiara abbastanza, va benissimo, è un microfono normale, il classico microfono normale, va benissimo. Adesso non sei uscito basso, ma hai messo l'eco, cosa hai combinato? Ho messo l'eco. No, l'eco è una bucaria, è una porcheria, è tutto... Attenzione Giulio. Sì, avanti. Buonasera a tutti quanti concorrenti del canale di questa parte del per questa vita. Dammi un controllo, come sto uscendo? Ciao Luci, quasi nuovo per il segnale, la radio è buona la radio, non è fortissima ma è buona. Bene, ok. Giulio, sono al telefono, ce l'ho qua, sono al telefono Giulio, un attimino ti riprendo subito. Ok, d'accordo, capito? Sì, va bene, Giuseppe, tutto bene? Insomma, può tirare avanti, può andare avanti, sempre tribulando, fare visite, contro visite, dunque... Ok Giuseppe, certo, no, già sta andando bene, sia di radio anche di segnale, per cui va bene così. Allora, cazzo metti di buona fumi? Non sanno che non ne voglio fare altre pellicole, stanno rompendo le scarpe, aspetta che lo stacco. Beh, ce l'hanno smesso loro. No, perché gli avevo chiuso la telefonata, perché questa era la seconda volta che ha chiamato. Capito? E tu vuoi la portata sempre a rompere le scatole. Ma non hanno capito che a me non me ne frega niente delle loro promozioni. E io lascio prendere. Quando vedo che vola, prendo e sacco. E cioè richiudo la telefonata. Vai Giuseppe. Scappa, bisogna lasciare perdere le persone. Se si è impegnato una parte non si è impegnato nell'altra. Questo è questo. Ma questa gente rompe le scatole tutte le ore del giorno, ragazza. Adesso metto qualche bocco, metto così almeno quando mi telefono più. Tutti i giorni, mattina e sera. Mi vogliono convincere a fare una loro promozione, a accettare una loro promozione. Ma a me cosa me ne affutta? A me non mi interessa la tua promozione. Ho questo contratto e vado avanti con questo. Non me ne affutta niente. Ma loro insistono, giustamente devono lavorare, però. E io blocco la telefonata, tutto lì, tutte le volte, perché c'è scritto buono, per cui allora prendo il gancio. Avevo cambiato da poco, avevo cambiato il numero da poco, prima avevo posto il mobile, quindi me ne prendevo nessuno e avevo cambiato il numero. Va bene, cioè non ho cambiato il numero, ho cambiato gestione. Proviamo un po', Natalino. Chi era l'amico che ha salutato? La buonasera. Ciao Leoncino, Gianni doppio rum, avanti. Ciao Gianni, buonasera. Meno male che ogni tanto ti ricordi a bere il baracchino. Ogni tanto, quando non c'ho niente da fare, sai che già. Io sono assegnato adesso con la vecchietta, dunque devo stare attenta che non succede niente, sai, no? Lo so, ma già è ancora ardita, là. Cioè, i due anni, dunque bisogna stare attenti. Vabbè, certo che sì. Sì, vabbè, ma almeno nascosto penso che lo fai, no? Sì, quello sì, no. Lo rimango sempre nascosto, io non è che non entro, però rimango sempre nascosto. Cava. Vabbè, avanti Giulio. Stato attaccato la stazione base, quella della Intec. Già va bene, non c'è problema. Certo, l'avrei già detto che se esce male te lo dico sempre, già lo sai. Va bene, aspetta che chiama Natalino. Sì, rimango in ascolto, là. Ci sentiamo alle truce. Ok Natalino, una bella radio comunque, molto bello col 3009, funziona alla grande, molto molto bello. Oltre al fatto che è molto bello anche esteticamente, a me piace molto. Va bene. Allora, Giuseppe, sei sempre a Sassari, sì? O hai trovato alloggio da qualche altra parte, nel senso lavoro? No, negativo niente, no, nulla giù, niente, negativo, nulla. Sono sempre impegnato a fare certe domande, contro domande, però nulla di più. Ok, ho capito. Vabbè, momento molto difficile, poi con questo fatto del Covid la gente non assume più altre licenze, addirittura licenza, non lo sai, ne hanno licenziato tanti. Purtroppo è così, e cosa ci vogliamo fare? Bisogna resistere. Tre volte bisogna dirlo, resistere. Avanti Gianni. Non so come sia andata, oggi sono andato al mercato per comprarmi i pulpi, no? E sono passato davanti al Moccador e praticamente c'erano tutti i tavolini dentro e c'era la vetrata che ti danno la roba proprio all'uscio, non ti fanno entrare dentro il bar, capito? tutti quelli ci sono. Poi sono andato al mercato e c'erano i pulpi vivi, ma non erano quelli di scuglio, e non ne ho preso. Io volevo quelli di scuglio. Dice, ma se li lascio una settimana in freezer, questi qui sono, diventano morbidi, li voglio. No, non li voglio, li voglio a due file. Sì, a due ventose, doppia fila di ventose, sono quelle di scuglio. Suppongo quella, quanto era? A 15 non c'è da prova, no, filo. Perché se sono così, se non sono di scuglio, al massimo valgono, se hanno 10-11 euro al chilo, non di più. Sì, no, ma tornando al discorso del bar che stavo dicendo, la gente si mette in strada, ragazzi, si aspetta che gli portino il caffè o che gli portino la bottiglia, il bicchiere della birra. Ma che c'è un macavirus? Ma quando mai? Così, una volta così si dava da mangiare al cane, agli animali, no? O dalle case o dai negozi uscivi con un boccone e glielo buttavi per terra all'animale. Ah, ma se mandi via sul punto, più o meno lo stesso sistema lo stanno facendo con le persone. Non è possibile, ma comunque. Sono per loro che vanno al bar non ci si va adesso, in questo periodo non ci si deve andare, secondo me. Poi che ci vuole andare ci vada pure, è nel padronissimo di fare quello che vuole. Io di sicuro non ci vado. Avanti Giuseppe. Sono entrato io. Allora, io ti spiego, io mi sono andato al mercato e in quel negozio dove vendono i formaggi, mi sono comprato la ricotta, eccetera, eccetera, che tra l'altro era buonissima. E ho visto questi panini belli, grossi, fatti con la mozzarella, pomodoro, eccetera, eccetera. E mi sono comprato un panino. Quando sono stato vado al bar, mi prendo una Coca-Cola o un'aranciata, qualcosa per bere, capito? Però non mi è piaciuta la cosa, c'era la finestrella come nelle carci. E te lo sto dicendo, sembra che uno che sia fuori, come facciamo il cane, come fa anche tutt'oggi il cane, che aspetta che il padrone gli butti qualcosa da mangiare così, ma il modo di vivere quello. A me mi dispiace perché sta lavorando, perché giustamente deve vendere, però guarda quello che sta combinando il governo a riguardo di chi lavora, è veramente vergognoso. Comunque, cosa dovete dire, non spetta a noi né a giudicare e tanto meno ad agire, perché cosa vuoi fare, tanto gli dà ragione, noi non comandiamo niente, lasciamoli fare. Io ripeto, oggi sono uscito lo stesso, sono uscito ieri, sono uscito anche oggi, sono uscito, ma per altri motivi, non certamente per andare al bar, no, anche se io ci andavo tutte le santissime mattine, Giuseppe tante volte ci siamo anche trovati la mattina per fare prendere il caffè insieme o un cappuccino, io di solito prendo un cappuccino, un bevo una pasta oppure un raffreddato, una cosa del genere, ma da quando c'è il fatto del virus non ci sono più entrato al bar e per quando non sarà finito tutto non ci andrò mai più. La colazione me la faccio a casa come sto facendo tutte le mattine, per cui va bene così. Solo mi dispiace che non posso incontrare gli amici, non li posso salutare, ma quando tu vai a trovarli non ti puoi avvicinare a loro, cosa mi vai? Tanto vale te ne rimani a casa e esci solo per le commissioni importanti di famiglia, niente di più. Io la penso in questo modo, oggi è troppo rischioso. Avanti Giuseppe. Sono rientrato io. Sì, adesso ti faccio entrare. Sanati a casa, dunque, siamo solo per fare le commissioni importanti. Purtroppo, per verificare il peggio, è meglio così, è meglio che rimaniamo a casa, almeno evitiamo tante cose. Sì, avanti qua, mi è uscito dalla mente che è rientrato, avanti. No, non c'è problema, sono qua, che ho il telefono, un po' cazzo, però la congiana è scritto il telefono. Va bene, no, la trattoria di fare di fila al bar, ma neanche io ci sto più andando, assolutamente. Io vado solo quando il bar è aperto, come ho fatto sempre, a prendere un caffè e basta, e poi vado via, ma stare lì in fila a aspettare che ti diano questo benedetto caffè dalla tazzina di plastica, uscì come i vegani, e di fare fuori a botta, preferisco fare colazione a casa. Ok, avanti Gianni, riprendi. E in carriera, come ti dici, ai barboni, aspetta il caffè. Io stiamo finendo bene adesso, poi non c'è più governo nemmeno adesso, voglio vedere come gestiscono la situazione, chi la gestisce e come la gestiscono. E non hai visto cosa stanno facendo? Stanno facendo il mercato politico, stanno facendo, stanno cercando di mettersi d'accordo pur di non mollare la poltrona, ecco cosa stanno facendo. Ma anche se riescono a formarlo un nuovo governo, sarà sempre un governo di pagliacci e debole, molto debole soprattutto. L'unica soluzione è le elezioni in questo momento, dare la parola al popolo, perché invece loro non si vogliono sradicare da quella poltrona, che sono ben incollati, maledetti, caspita, tutta gente mercenaria, perché sono tutti mercenari quelle persone lì, la carità. Vabbè, comunque, avanti Giuseppe. Vabbè, purtroppo siamo in mano a loro, cosa vuoi fare, purtroppo vediamo che non facciano fino a pulire quella cosa là, e sono veramente molta gente si trova in difficoltà, purtroppo è già che ce l'abbiamo qui per poter campare, e se ci trovano quelli non so come possiamo andare avanti. Ah, che è quel cuomane di Filoncino, eh? E allora, ciao Valle. Vabbè, Lemoncino! Arrivo subito io un attimo. Ok. Lemonci! E chi è? Tu vuoi ti camisseggia? Chi è Gianni, che non ho capito? Tu vuoi ti camisseggia? Sei di bella, sei di bella, vieni prendo. Lemonci, unghia nera, sono, ti ricordi di me? Unghia nera? Ehi, unghia nera! Tommaso unghia nera, non ti ricordi di me? Vai, tanto che assomiglia a qualcuno che nel monte. Qualcuno del monte? Tommaso unghia nera, anni 70! E da dove stai modulando, Tommaso? Da Rivochi! Eh? Da Rivochi! Da rubando la bocca! Da Caniga! Dove sei tu? Io sono zona Monte Alta. E dove Monte Alta? Dietro Gianni sono, là, dopo dietro Gianni dopo. Ah, tu sei Giuseppe Pedivella? No, stai sbagliando. Ah, là, scusa, riprendete, scusate. Oh, Lucri. Lucri. Boh, impossibile. Va bene, comunque non l'hai riconosciuto, Non l'hai riconosciuto, Giuseppe, cara Pittina. Dopo. Senta un po' di tempo. Poi tu non sei a Monte Alto, tu sei a Monte Medio, sì, e non sei a Monte Alto, perché Monte Alto è ancora più su. Va bene, dai, comunque, già va bene Giuseppe, già va bene. Fai l'umuria, vedrai che ti ricordi chi è quella modulazione. Avanti Gianni. Quel Luca Pugioni è, quello che lo faccio schiattare io ogni tanto. Giuseppe, sentito hai? Mi hai chiamato? Sì, ho chiamato, ma adesso c'è stata un'altra modulazione e sto chiedendo a Giuseppe se ha sentito. Sentito hai Giuseppe? Ho sentito. Ma adesso non sono presente, sai, a riconoscere tutti quanti gli amici che sono in frequenza, vecchi, nuovi, intanto qua. Adesso vabbè che ci manco da parecchio, però adesso a ricordarmeli tutti voi. Con la testa che c'ho, ma se te l'ha detto Natalino, te l'ha detto, nome e cognome ha fatto Natalino, non l'ha sentito? Non ho capito, quel cuocuomane di Luca Pugioni è. Ho capito. Ne cosa, mi soldatino, mi soldatino, Luca soldatino. Lucrezia. E vai, ecco, cazzo. Era un giorno che andate zitto, cazzo. Lucrezia. Ah, io riprendi Gianni, Claudio si è sentato ancora una volta. Avanti Gianni, riprendi. Sì. Cavagava. Sono sempre preoccupato per questo Galaxy, sto pensando cosa possa essere. Non è dormire stanotte, no? Stanotte non è dormire per il Galaxy. Ma futti dimmi! Se non funziona lo fai riparare e basta. Se no 150 non è a me. E lo lasci con me, poi ci penso io. Cavagava. Beh, vabbè. Beh, adesso vediamo. Andà bene. Io già ci metto, io già sono qua. Ok, qua. E abbiamo comprato Gianni per il Galaxy. Capita, e abbiamo comprato il Balogar. La puti dimmi Gianni, vivi tranquillo. E fregatene. Il Galaxy già si ripara. E se non si ripara si vende. Io l'ho preso così poi. Avanti Giuseppe. Grazie, dai. Va bene, dai. Dai, io rimango in ascolto e sentiamo tutte le prossime. Perché adesso devo fare cosa, dai. Sentiamo le prossime, dai. Guardati per me, dai. Ciao, a tutti. Componenti del canale. Ciao, ciao Giuseppe, ci sentiamo. Buona serata, dai. Ma non è Giuseppe di Svella, già. Sì, io. Ah, è lui, allora perché dice no? E beh Luca, e allora, cosa ci racconti oggi? Con tutti i canali, visto ce l'hanno canali 12, bu, per carità. Va. Che su canali 12, ci dai le vado, ognuno va dove vuole. E a disturbare, ah vabbè, già va andare, dai. Io non dico niente. Poi quando disturberò io, allora mi sono zitto. Vabbè, non è un problema, io a tutti i mutini. Lo so, gli splatter su mettere le loro, guardarsi bene, però non è un problema. Vabbè, tu sei vicino, se sono lì dalle tue parti è chiaro che un po' di fastidio ti possono dare. Certamente sì, avanti Gianni, anche tu ti lamenti per gli splatter. No, io non ne ho qua, no, non ne prendono gli apparati che ci displattere, è difficile, a meno che attacchi, una roba del genere, allora appena li sento, basta che abbassi le feghine, non le sento più, no, la verità, con 48 mi ammazzavano, quando parlavano li sentivo dal 23 al 10, li sentivo chiari, e infatti così ho fatto. Già, quella roba là non ce l'ho fatta a farla, perché mi hanno chiamato stamattina un amico là, che il padre ha toccato un tasto del televisore, siccome c'è Sky, no? E sono dovuto scappare veloce a sistemarlo, perché sennò erano disperati. E stavolta te lo faccio, cioè, domani mattina viene e te lo prendo. Ehi, vabbè, non c'è problema, là. Vada bene. E adesso fa un po', ce l'ho un po' l'anima anche col fatto della televisione, che cambiano tutti i sistemi di trasmissione e ci fregano, purtroppo è così, non so quando arriverà per la Sardegna, ma diciamo che è una cosa che arriverà molto presto, con questo fatto, intanto stanno sempre variando i programmi, da un canale lo spostano un altro e così via, però anche quello ci vuole, l'abbiamo di va, così almeno la gente lavora, almeno lavorano quelli che stanno facendo questo nuovo impianto di trasmissione. Poi vedremo, speriamo che non si futta nel buco del telefono, perché visto e considerato che la frequenza della TV passa al telefono, speriamo che non ci sia, che non saremo costretti anche a cambiare il telefonino. Va bene, dai, comunque. E viva l'economia, bisogna farla muovere. Vai Luca. Sì, da 6 è grande già bada digitale. Adesso di nuovo per creare problemi a Gianni spenderà più soldi in decoder, ghiaccio, ghiaccio, ma se la prendono tutti nel rucchio, se la pigliano. Vabbè, finché uno deve cambiare un televisore, vabbè. Tu immaginati, io ne ho 5 qua installati televisori. E funzionano tutti e 5 tutti i giorni. Ci sono quelli che funzionano di giorno e quelli che funzionano di notte. Per cui, al limite, se mi compro 5 decoder, sono sempre una bella cifra. Quanto costerà un decoder? Una cinquantina di euro. Se sono 5, già 250 euro. Per dire, no, per farlo funzionare, non è che posso stare trasmettendo, cioè spostando il decoder da un televisore all'altro. Non può sì, tanto male mi compro il televisore in UPI. Noi purtroppo così, non c'è pace per i poveri, Gianni. Non è quello il problema, che danno anche la gente anziana ha problemi a fare queste cose, non lo sa fare, danno problemi anche alle persone, capito? Già che vigilia del Palermo ogni volta che devo stare, l'altro giorno hanno tolto i canali, non si vedevano alcuni canali di Liulina eccetera eccetera, si è ripreso. Deve essere che col vento che ha fatto ne ha buttato qualche ripetitore, qualche cosa. Ecco. Registrato il becco. No, guarda che non è solamente il fatto che può essere il ripetitore che ha avuto qualche avaria eccetera, no, siccome stanno facendo i lavori, tante volte loro staccano e poi per ritornarci deve fare di nuovo la ricerca dei canali, tutto lì. Avanti, Massimiliano, se non sbaglio, buonasera. Sì, ciao Giulio, buonasera, dai. Passiamo da questa, ciao anche a Gianni, poi non so chi c'è ancora in radio perché non ho fatto ascolto, la verità. Ma ci vediamo, qualcosa attaccato c'è sotto, perché siete il rumore di questo fuoco? Ciao, comunque buonasera. Cosa c'ho? Qualcosa attaccata? Sì, siete pi pi pi bu. Questo è un'altra cosa, la ventola di qualche trasformazione, di qualche alimentatore, niente in particolare. Vabbè, forse aveva la radio troppo, il microfono troppo alto, allora sarà per quello che senti gli disturbi o Gianni, ma diciamo che in linea di massimo va bene, non c'è problema. Avanti Massimiliano. Sì, si sta scaricando la batteria del Turner. No, Massimiliano, io a te così non ti ho mai sentito col rumore di sottofondo. Ti sentivo sempre limpido di radio, anche da ieri che stavamo modulando eri limpido, adesso c'è questa ventola, questa cosa di sottofondo, ho spostato qualche alimentatore. Ah, solo il microfono troppo alto, Gianni, è quello, se il danno è sensibilissimo e prende quello, vai giù il Massimiliano. Oh, guarda un po' abbassato, guarda adesso. Adesso va meglio, vabbè dai. Gianni, riprendi? Va, va bene. Andare. Niente, riprendi chi è rimasto? Luca, va. Io sono ai Cornelli, ci metti 5 minuti e sto arrivando. Ciao anche Massimiliano. Ok, d'accordo qua. Sì, no, Luca si è assentato, poc'anzi l'abbiamo chiamato e non l'ha ripreso. Vai Massimiliano. Ciao Clam, buonasera, me l'ha ascoltato, eh. Oh Giulio, vedi un po' se c'è ancora questo rumore? Sì, ma quasi niente, va benissimo, così va bene, Massimiliano, così va bene. È solo che il microfono è troppo sensibile, basta uno nulla, basta che ti vuole una mosca vicino che si riesce a captare il segnale, cioè il rumore, quel microfono lì, lo sappiamo com'è, no? Ma va benissimo, ma per me va benissimo, poi se Gianni è Riccardo, non lo so, Gianni, cosa si è Riccardo di stasera? No, io non so pure di scaldi, io dico le cose come sono, cioè. No, va bene adesso Massimiliano, adesso non è fatto più rumore come prima, prima stava facendo rumore strano. Magari ieri l'ho aumentato un pochino per cosa, per ascoltare per farmi ascoltare un po' meglio di radio perché ho da arrugginito, capito? E magari l'avevo troppo aumentato, ecco, adesso sono a metà. Va benissimo, così va benissimo. Sono microfoni eccezionali, il Tanner sono microfoni eccezionali. Non ci sono dubbi. Sono l'unico difetto che hanno che anche da 100 metri di distanza se uno parla, io me ne rendo conto, ad esempio, tu lo sai, no, voi lo sapete, io ho a casa più di belli, mia figlia parla giù dalla tavernetta e io con il microfono se ho un volume troppo alto voi la sentite, eppure ci sono addirittura due piani sotto, per dire, no, sono così, i microfoni amplificati quando sono buoni e sensibili hanno questo difetto. Vanno benissimo perché ti danno una bella modulazione, potente, come vuoi, anche a lunga distanza, però hanno una sensibilità estrema e purtroppo è così. Vai Massimiliano. Purtroppo questi sono buoni. Poi questo qui è originalissimo, non è stato mai toccato da nessuno e tutte cose, capito? Questo è il più 3B, quello nero. A voglia, quello è straordinario, praticamente diciamo che è il numero uno, ma tutto sommato tutti i Turner sono buoni, la verità, io li ho sempre apprezzati tutti quanti, qualsiasi sedie, i microfoni Turner, anche quello manuale, anche quello va benissimo, il più 2, anche quello è fortissimo, sono microfoni straordinari, ma da sempre, sono microfoni degli anni 70, e dunque sono eccezionali veramente. Avanti Gianni. Un attimo, sono... Ok, sei ben ambulente, sì, do il telefono. Davvero, giovane, è un capo di gomma, o Massimiliano. Che ce ne bisogna. Ragazzo uccello, si dice in italiano. Ragazzo uccello. Vediamo se c'è Natalì. Natalì, dai, fai un saluto a Massimiliano almeno, visto che ci ha ascolto. Ciao Massimiliano, io ne sto cercando uno di Turner, non è che c'è qualcuno che ce l'hanno, che lo sta vendendo. Sto cercando un Turner, se c'è qualcuno che lo sta vendendo. No, io l'ho appena comprato per il Dart. Sono un po' difficile, scusate se ho rientrato, buonasera a tutti. Sono un po' difficile a trovare Natalì, guarda su internet, tu che... sempre su internet, controlla, io l'ho trovato proprio per fortuna, anzi la verità me l'ha trovato Massimiliano, capito? E l'ho comprato, se no è un casino trovare i Tarnek, sono io tre, la girate, tutte e tre, da lavorati. Sì, c'avevo il 3, il 2, c'avevo lo Shure, li ho venduti anche io, me ne sono convintuto, però. Ma che poco di microfono, l'MC60. Io ce l'ho, ma vorrebbe riparato, non so cosa gli sia successo, perché tutto il lavoro, dopo anni che l'ho usato, si è bloccato e non è uscita più la modulazione. La gibbia è stata di butto dentro un calascio, è lì da qualche annetto. Comunque non l'ho più cercato, però c'è sempre quello grigio, quello il famosissimo degli anni 70. Avanti Massimiliano. Un secondo, lo devo allontanare, un attimo non so. Ok Massimiliano. Bene, bene, avanti Cla. Ok. Va bene Massimiliano, dai. No, io guarda, come microfono sono a posto. Ho tutti gli MBP5 che funzionano bene, qualità prezzo, ho messo tutti quelli, 2 più 4 e il Dame più 3 sul Galaxy. E basta, poi qua sul 140 e 430 c'è l'MC60, anzi ho anche l'MC50 che in questo momento non sto usando perché è collegato all'altro 140 che non ho più. Ok. Va bene, avanti Gianni, riprendi. Gianni è al telefono, ha chiesto standby. Sì, beh certo, però io sto usando sempre questo, adesso l'MB più 4, vecchia versione, per cui vedo che va bene e me lo tengo fin quando funziona. Quando non funziona, bella garretta della Mondezza, non c'è problema. Tra l'altro ho fatto fuori tutti i baracchini che avevo, adesso me ne sono rimasti solo 3 e conterò di buttarne fuori altri 2 e mi tengo l'HB23 e questo che sto usando adesso come riserva l'HB23. Poi se si guasta questo allora ne compriamo un altro tranquillamente, non c'è problema. Tutto lì, ho fatto fuori tutto, non voglio avere più nulla, troppe cose, mettere i beni, tutti alle volte devo diventare, spendere mezza giornata lì a spolverare, a fare, ma come lo faccio fare? Sai che l'ho fatto tutto, ne ho venduto già, ne avevo 9, cioè ne avevo 12, ne ho venduto 9, si chiama, mannaggia, solamente 3, per cui credi bene che e col tempo faccio fuori anche questo. Altri, questi 2, l'altro vabbè, quello ho detto, me lo tengo, è ovvio, e ciccia. Così ho il ricambio in caso di guasto di questo che sto usando adesso. Avanti qua. Sì, ma infatti non conviene avere tanta roba, io ne ho fatto fuori parecchia. Adesso c'ho questi baracchini che mi piacevano, però il principale è sempre il Galaxy, modulo con quello, va bene. Gli altri sono tutti spenti, però sono funzionanti, li ho provati tutti, sono tutti funzionanti e vanno benissimo. Va bene, sì, poi Gianni a quest'ora è al telefono, ok, poi non so chi altro c'era. Poi Natalino in ascolto, vabbè Giuseppe ha chiuso, Giuseppe Giuncino ha chiuso, Luca non riprende, per cui Massimiliano è anche lui ha chiesto standby e rientrerà senz'altro fra un po'. È così, è qua, è cosa dire, vai, funzionano tanto, hanno sempre la stessa frequenza. se fosse stata parecchiando la stessa frequenza, allora è diverso. Ma hanno la stessa frequenza, non me ne posso niente, l'ho tenuto per anni e anni, no? Mi hanno solo dato fastidio e basta, mi hanno occupato spazio e dato fastidio. Dunque io mi ho smerciato un bel po'. E va bene, dai. E tiriamo avanti così. Quando mi si guarda questo che sto usando adesso, mi compare giù un superstar, mi compare giù non so, un 6.600 o un 6.900, anzi, o addirittura un 9.900, oppure un 3.900, e vediamo un po'. Saremo quando sarà il momento, ci penseremo, ma avvenne anche avvenne truppi, mai più con lui, lasciamo perdere, lui non mi interessano più. Non abbandono la frequenza, questo no, non l'abbandono perché mi piace troppo. Però è una stupidaggine avere tanti baracchini che poi fanno sempre lo stesso lavoro, lo facessero diverso il lavoro, ma cioè no, è sempre quello. Riprendi qua. No, sempre tutti uguali siamo infatti, con la fin fine. Quando ne hai un acceso gli altri sono spenti, non è che cambia niente. Ma io sto usando questo perché è arrivato ieri dal centro assistenza. Mi ha detto di farlo andare, che voleva sapere se era tutto a posto, altrimenti uso sempre il Saturnetto, non la mia, non la verità, però purtroppo con guarda Gianni sono radio che hanno una certa età e possono andare in tilt in ogni momento, perciò non bisogna fare una malattia, io adesso poi Gianni lo sento per telefono, così gli do un input, se se lo vuole riparare, le dico dove mandarlo. Che tanto non deve stare rattoppando, alla fine c'è una radio buona, una radio nuova, comprata, si può dire, nuova, capito? Già ce n'è tecnici continenti, io ho mandato questo e me l'ha fatto nuovo, anche perché nuova, esteticamente che me l'ha fatta nuova, perfetta, tutta riallineata, cambiate alcuni componenti piccolini, insomma, da pulire, però me l'ha fatta nuova. So che aggiusta anche i baracchini, quindi lo sento, sento prima Gianni se lo vuole fare, poi sento dove l'ho mandata io, si fa un pacco, si manda, si imballa bene, si manda e si fa riparare come i cristiani, quando arriva la radio nuova come il primo giorno che lui l'ha usata, secondo me, cosa avevi più due che di là, comprare un altro baracchino uguale a Ghisciu o peggio di Ghisciu, ma non ci sto manco pensando. Orca, dimmi tu, come passare su 7? Perché? Ci siamo io e Giulio qua, dimmi. Ah, ma quello là non ci va su 7, capito? Ah, vedete se va su 7. Perché su 10 non ci va. Ma come mai, cazzo? Io la cattiva dei quarti allora. E c'è qualche problema sui quarti. Prova a passare sul 7, Giulio, vieni a 7. Ok. Hola, hola. Gianni, ci sei? Attento Gianni, do più room. Hola, Gianni. Oh, si sono spostati al 7 momentaneamente. Aspetta, ok. Non c'è il nostro microfono? Hola. A voglia Massimiliano. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. Questo è il parlascolta. Con l'eco, forse ha messo eco, vero? Sì, l'effetto ecco, è anche molto pulito, eh. Ok, hola. E questo cosa serve? Hola. Forse questo è, non lo so, forse la regolazione del parlascolta. Com'è? Troppo cattedrale? La passo un po' io, così, guarda, 1, 2, 3, prova. Sì, Gianni, vabbè, non ti copre la voce la ripetizione, non la copre assolutamente. Ah, ok, dai. Adesso io mi sto ascoltando. 1, 2, 3, prova. Sì, anche se poi a distanza è già un'altra cosa. Me ne sono accorto. Perché senti la tua stessa voce, no, già hai capito. Ok, ascolta Marco, il segnale così com'è, buono? Fammi un bel ola. Ola, 1, 2, 3, prova, ola. Allora, 9 più 5 di portante muta, e sì, tra 9.10 e 9.15 è modulato. Ok, adesso faccio un altro passaggio, aspetta. Allora, 1, 2, 3, prova, vedi un poco, questo è un altro passaggio, vola, vola. Sì, 9.15 pieno adesso, decisamente. Ok, va bene, questo microfono, Lafayette, KK. Sì, ma baracchino è quello, ma che domanda, giustamente. Cosa?